24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Paola Nania all'appuntamento con 24 ore in Europa. Da Londra all'andamento delle piazze finanziarie. Anche oggi il nostro GR europeo si concentra su questi temi. Parleremo degli scontri, i riots come si dice a Londra, degli arresti, delle mosse del governo Cameron in Inghilterra. Spazio anche alla seduta di borsa, ieri positiva in Europa, e cercheremo di capire attraverso l'opinione di Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, quale sia il rapporto tra politica e andamento dei mercati. Poi la morte di una scrittrice femminista di origine ceca, asili nido in Europa e sport. E sono gli scontri che da Londra si stanno allargando ad altre città della Gran Bretagna ad attirare l'attenzione di tutta Europa. Partiamo da qui. Marta Cagnola. 525 persone arrestate a Londra, 138 fermi a Birmingham, ma le violenze si sono estese a Bristol e Liverpool. È sempre più tesa la situazione nel Regno Unito. C'è anche una vittima, un 26enne ritrovato agonizzante in un'automobile a Croydon, nella zona sud di Londra. Sarebbe stato ucciso da un proiettile durante un inseguimento tra gruppi di ragazzi. Il premier David Cameron, rientrato nel Regno Unito dall'Italia dove era in vacanza, ha tenuto un discorso ribadendo la posizione del governo. These are sickening scenes, scenes of people looting. Quelle che abbiamo visto sono scene rivoltanti, ha detto Cameron, scene di gente che saccheggia, devasta, che attacca poliziotti. Questa è criminalità pura e semplice. E la polizia chiede ai genitori di assicurarsi che i figli rimangano a casa questa sera. Ma chi sono i giovani che provocano questi disordini? John Dickey, professore di studi italiani all'University College di Londra, l'ha intervistato Raffaella Calandra. Una banda di forse 150-200 giovani è stata capace di ridurre uno stato di anarchia. Sono soprattutto giovani tra i 13 e i 18 anni, sono in altre parole i classici componenti delle baby gang. E poi hanno anche uno scopo molto semplice, innanzitutto di creare casino, rubare telefonini e scarpe da ginnastica. Ha tutto il sapore di uno status symbol. Sì. Su questo non c'è dubbio, sono ragazzi che vivono in una situazione di disagio economico, di emarginazione a livello del sistema scolastico, hanno creato una cultura loro proprio, le comunità stesse si sentono molto colpite. Quindi non c'è solidarietà nei confronti assolutamente della protesta? Assolutamente no, anzi, nessuna solidarietà. Scarpe da ginnastica e il telefonino sono un sintomo di ambizioni negate. Molti sono, diciamo, immigrati di terza generazione, però che si sono visti sorpassare da etnie di tutto il mondo. I disordini, lo ricordiamo, erano scoppiati sabato notte nel quartiere di Tottenham dopo la morte di un giovane Mark Duggan colpito dalla polizia. Era armato ma non avrebbe sparato. Al momento, afferma il rapporto preliminare dell'ente che sta indagando sull'accaduto, non ci sono prove che indichino che la pistola rinvenuta sul luogo abbia esploso dei colpi. Ed è tutto. Da Londra ai mercati finanziari. Ieri chiusura positiva per le borse europee dopo un'altra seduta altalenante. Milano ha chiuso a più 0,5, Parigi più 1,6, Londra più 1,4. Francoforte invariata. A sostenere i listini il buon andamento di Wall Street. È stata Banco Popolare di Milano a guidare il recupero a Piazza Affari, nonostante il listino italiano si sia mostrato complessivamente timido nel rimbalzo dopo ben 7 sedute consecutive di flessione. I riacquisti, che hanno riguardato sostanzialmente tutte le borse europee, grazie al convincente sostegno di Wall Street, si sono rivolti soprattutto al settore industriale, ma anche ad alcuni bancari. La Popolare di Milano, appunto, è stata la migliore, salendo di quasi l'8%, mentre Saipem si è riscattata dopo sedute da incubo e ha guadagnato il 5,3%. Realizza invece su Telecom Italia scivolate in fondo al FTSE MIB, lasciando sul terreno quasi il 2%, una correzione prevedibile comunque, visto che le azioni del gruppo telefonico erano state tra le poche a resistere allo tsunami delle ultime due giornate, salendo anzi del 5,6%. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. Su politica, debole e mercati, il commento è di Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, ospite di Focus Economia. Certamente la democrazia rappresentativa è fondata sul consenso e per un premier, per un capo di governo, per un leader, il consenso del proprio elettorato è sempre più importante della previsione su quello che andrebbe fatto per domani. Però è anche vero che questo deriva da un lato da una certa crisi di leadership, nel senso che di grandi leader capaci di sfidare il proprio popolo facendo il suo bene, un po' come faceva la Thatcher, no? Che diciamo, prendeva a schiaffi la sua gente, però poi si è verificato che l'Inghilterra è uscita dalla crisi drammatica in cui era, ecco, ce ne sono pochi. E dall'altra parte anche dipende dal fatto che questa crisi del 2008, quella passata, che adesso stiamo forse si sta forse riproponendo sotto nuove spoglie, ha in qualche modo un po' esaurito le armi e le munizioni dei governi. Basti pensare che Obama ha immesso nell'economia 800 miliardi di dollari come stimolo fiscale e oggi diciamo ha dovuto soccombere ai repubblicani per raggiungere un accordo sul debito, quindi non ha più munizioni, non ha più soldi da spendere, così anche i governi europei. Quindi oggi il senso di impotenza della politica e dei governi è particolarmente avvertito e pericoloso, secondo me anche. Il caso è ancora tutto da chiarire, ma la morte di un'eroina femminista sta scuotendo la Repubblica Ceca. Si chiamava Simona Moniova e aveva 44 anni. È stata trovata morta nella sua casa di Brno, uccisa a coltellate. Il marito Boris era accanto a lei, gravemente ferito. Ed è proprio su di lui che si concentrano ora i sospetti. La Repubblica Ceca è particolarmente turbata da questo delitto perché Simona Moniova era una scrittrice. I suoi libri erano dei veri bestseller, molto apprezzati dal pubblico femminile perché proprio di donne parlavano, di donne costrette a subire la violenza tra le mura domestiche. Dolori del cuore, uno dei suoi romanzi più noti, racconta di un matrimonio che parte tra le gioie dell'amore e finisce in un incubo fatto di vendette ed aggressioni. Ho tratto la storia dal racconto di amiche, aveva detto Simona, ma ora il sospetto è che quell'incubo lo abbia vissuto lei in prima persona. Simona mi ha confessato di essere stata picchiata e violentata per 11 anni dal marito, racconta un amico. E lei, sul suo sito web, scriveva: la marcia nuziale mi evoca sempre il pensiero delle musiche marziali con cui i soldati vanno all'attacco al fronte. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora troppi pochi i bambini che riescono ad ottenere un posto in un asilo nido e quelli che riescono a vincere la lotteria lo fanno a caro prezzo. Sentiamo. L'Europa ci imporrebbe che il 33% dei nostri bambini da 0 a 3 anni possa frequentare un nido. Siamo invece fermi drammaticamente al 13%. Gli altri a casa, con la mamma che così non può andare a lavorare, oppure con la nonna, finché almeno le donne non andranno in pensione a 65 anni, poi le famiglie si saranno giocate anche questa possibilità. Oppure con la tata, che di certo non lo fa gratis. Solo il 13% dunque riesce a frequentare il nido, ma a caro prezzo. Secondo uno studio della UIL, la quota che i comuni chiedono per frequenza e mensa è in media di 317 euro mensili, quasi il 10% del reddito netto familiare. La città in cui si paga di più è Bolzano, 480 euro mensili per una media di quasi il 15% del reddito familiare. Poi Aosta, Firenze e Torino. La città meno cara, Catanzaro, 138 euro mensili per una media di poco più del 4% del reddito familiare. A Napoli si spendono in media 150 euro, a Roma 199. E non c'è da stare allegri per il prossimo anno scolastico. Sempre secondo la UIL, in almeno 4 città scatteranno ulteriori aumenti. Si tratta di Torino, Genova, Bologna e Ancona. Le famiglie italiane ringraziano. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il calcio italiano guarda al futuro, a cominciare dai propri terreni di gioco. Per adeguarsi ai perfetti campi inglesi, alcuni club di Serie A stanno scegliendo nuove strade. Il Novara e il Cesena, per esempio, utilizzeranno nel prossimo campionato campi in sintetico, mentre il Siena, a partire dal 2012-2013, utilizzerà per lo stadio Franchi un sistema misto sintetico e naturale. Dario Ricci ha intervistato proprio il presidente del Siena, Massimo Mezzaroma. Io penso che gli italiani debbano ricominciare a fare sistema e a spalleggiarsi l'un con l'altro quando si cerca di inventare cose nuove per aggredire nuovi mercati, e quindi è una scommessa che mi piace, una scommessa imprenditoriale. Quanto vi costa questo nuovo campo, Presidente? Ma intorno agli 800.000 euro. Ma le squadre di calcio non si costruiscono solo con gli uomini, si costruiscono anche con l'organizzazione aziendale, col marketing, e si costruiscono soprattutto con l'impiantistica, perché basta superare i confini italiani per vedere come nel resto del mondo le aziende calcio ragionino in questa maniera. E Albertini, oggi Demetrio Albertini, che è venuto a presentare insieme a me questa nostra iniziativa, mi raccontava che siamo l'unica nazione al mondo in cui i giocatori non si allenano sul campo di gioco, perché i manti erbosi dei nostri stadi sono ridotti in condizioni tali e hanno delle tecnologie talmente antiquate che non consentono loro di allenarsi. Ecco, una delle ragioni fondamentali per cui ho scelto invece questo prodotto è che ci consentirà di allenarci anche allo stadio, quindi facilitando ai giocatori il reperimento di riferimenti visivi mentre loro giocano. Ed è tutto, grazie in regia Mauro De Angeli, un saluto da Paola Nania. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.